Vabbè, dai, si parte. Si comincia. 3, 2, 1, vai! Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in pieno centro di Montevarchi, e cogliamo anche l'occasione per ringraziare Stefano Neri che ci dà questo spazio dove poter registrare. L'ospite di stasera è un ospite fumino che è molto conosciuto in città, anzi la vera domanda sarebbe chi è che non lo conosce? È veramente così. L'ospite di oggi è un montevarchino doc e è anche una persona che dentro al Montevarchi Calcio c'è stato praticamente una vita. Ha iniziato a 6 anni, in largo anticipo si può dire, in così tenera età, e non ha certamente bisogno di tante presentazioni. Quando vi dirò il suo nome capirete subito chi è: Tiziano Casucci. Grazie di essere con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito, è veramente un grande piacere e un onore, perché da Montevarchi, come dicevate voi, aver fatto la trafila sia nelle giovanili e poi non ultimo anche nella stanza dei bottoni, diciamo così, dove c'hai in mano proprio tutta la squadra, non è una cosa semplice proprio perché sei del posto, però è gratificante. A voi per questa bella serata e soprattutto per la lodevole iniziativa che stai facendo, perché mettere a conoscenza anche quelle parti che poi magari vengono meno fuori è sempre una cosa molto bella. Grazie Tiziano, infatti quello che stiamo facendo è una ricerca della montevarchinità, avendo noi l'idea che la montevarchinità stia proprio all'interno dello stadio Brilliperi o comunque in stretta relazione con la squadra di calcio della città. Quello che ci prefiggiamo di fare è proprio questo. Quindi iniziamo la nostra intervista, però senza non prima ringraziare il nostro regista di stasera, che è Francesco Pingitore. Bene, allora Tiziano, partiamo proprio dagli albori, partiamo dall'inizio. Prima, a microfoni spenti, ci raccontavi che ai tuoi tempi, quando tu eri un ragazzo, difficilmente i bambini venivano inseriti nelle squadre di calcio prima di 9 anni più o meno, e te però, chissà come, chissà perché, magicamente sei riuscito addirittura ad andare a 6 anni con i ragazzi che erano 3 anni più grandi di te, quindi un abisso. Raccontaci un po' come è successo e cosa ti ricordi di questa esperienza da giovanissimo. Allora, è successo che ero ero molto vivace. Chiaramente il babbo in quegli anni, lavorando lui e lavorando la mamma, non essendoci come oggi a 6 anni i bambini fanno la scuola calcio, prendevano intorno ai 9-10 anni guardando più che altro il lato fisico, e quindi potevano essere 9-10 anni, 11 addirittura, perché un bambino più gracilino veniva anche a 11 anni preso. E io ero un bambino, come dicevo, molto vivace, e mio babbo conosceva l'allora Moretti Angelo, che era falegname qui a Montevarchi ed era allenatore anche delle giovanili, convincendolo e mettendolo sopra su tutto quello che era il bagaglio che poteva essere il livello calcistico, promise di portarmi un sabato mattina all'allora si chiamava Mazzola. E da lì nacque questo primo incontro, mi ricordo, con dei ragazzi tutti molto più grandi di me, però fu subito un bell'incontro, perché già dal quel sabato poi fui ripromesso di andarci per tutto l'anno il sabato. L'anno dopo facevamo il mercoledì sera e il sabato mattina, fino a che non ebbi 9 anni abbiamo fatto questo. E a partire da questo tuo inizio, piano piano, lentamente, hai proseguito nei settori giovanili fino ad arrivare alla prima squadra, dove hai esordito nel 79-80. Preciso. Precedentemente avevate vinto con gli allievi, quindi insomma hai fatto tutta una scalata. Da lì in poi sei entrato in prima squadra e quindi hai iniziato a giocare con la maglia rosso-blu ufficiale. Com'era in quel periodo? Ma è stato veramente una bella gioia, lo è stata sempre, perché ve lo dico tranquillamente, sono stati i miei colori che mi sono portato tutta la vita e mi porto tuttora ad oggi. Chiaramente in quegli anni lì ho avuto anche la fortuna di giocare con dei ragazzi. Vi fo un esempio: Landi Gabriele, che ha toccato la Serie B con Lucca Salernitana ed era con Orrico.

prematuro dell'età e poi è scomparso, però veramente Bruno è stato per me un fratello maggiore, un babbo, ripeto, un qualcosa, un amico, un, non so descrivervi quanto bene ho voluto a questa persona, perché capì quanto era l'interesse vero nei miei confronti. Bene, e allacciandomi proprio al fatto che tu ti sia ritrovato un giocatore di Serie A, da figurina, come tu hai detto, come Bruno Beatrice, ti chiedo, ma cosa si prova a quell'età, alle primissime esperienze nelle squadre, nelle prime squadre, a ritrovarsi a giocare contro oppure insieme ad un calciatore che ha fatto la Serie A, un calciatore che fra virgolette si potrebbe dire un calciatore vero, visto che anche al Montevarchi recentemente è accaduto? Guarda, devo dirti, innanzitutto quello che ho trovato in queste persone è la grande disponibilità e l'umiltà, ciò che non ho trovato dopo con calciatori che non hanno calcato nemmeno la Serie C. Questo mi è rimasto dentro perché ti fa capire la dimensione di queste persone. Poi devo dirti, non solo con Bruno, ma ho avuto la fortuna e la gioia, e devo dire l'onore di giocare con Franco Baldini, con Stefano Mariani, con Baroni, con Bencardino, degli atleti che hanno fatto Serie A e Serie B, con Taddei Sergio, con Nicolai Giuliano che hanno fatto C e B, per non dimenticare poi amici veri di tante sfide che sono montevarchini anche loro, come Vinicio Brilli, un amico, un compagno, uno nel Montevarchi ha fatto la storia, ha fatto oltre 300 partite in Serie C, quindi persone che poi ritrovo, non dico quotidianamente, ma insomma ci vediamo abbastanza spesso, con questi lati che ti lasciano tutti un qualcosa, ma soprattutto, ripeto, la grande disponibilità e l'umiltà, perché poi anche ritrovandosi dopo che si è finito di giocare a calcio, ho ritrovato delle grandi persone. Ciò che non ho trovato, ripeto, con gente che magari non ha fatto campionati importanti e che si davano delle aree che infatti sono spariti. Ecco, questa è la dimensione dell'uomo, del calciatore, ma soprattutto anche di quello che ha calcato campi importanti, ma è rimasto di una dimensione umana notevole. E tornando appunto ai momenti in cui calcavi campi di calcio con la maglia rossoblù, alcuni dei tuoi ex compagni, alcuni che hai anche citato, già sono venuti a trovarci e ci hanno raccontato di un tuo gol che fu decisivo per proseguire il percorso in quella famosa stagione in cui Montevarchi vinse sia la Coppa Italia Dilettanti che il campionato. Raccontaci di questo gol particolare, visto che appunto oggi sei davanti a noi, chi meglio di te può raccontarci come andò e cosa successe? Avevamo pareggiato il primo turno in casa 0-0 con il Poggi Bonsi, al ritorno andammo al campo di Poggi Bonsi, al lotto di Poggi Bonsi, e loro segnarono una rete dell'1-0, noi non ci saremmo qualificati, se non che sul lancio di Giuliano Nicolai ebbi la prontezza di scattare il mio uomo, di arrivare davanti alla porta agli ultimi, mi sembra, 3-4 minuti e realizzare l'1-1, e ci permise quella rete di passare il turno, e da lì poi, come sapete, arrivavo in fondo la Coppa Italia. Però devo anche dirvi che nello spareggio, cioè nella partita di Coppa, rigori, sbagliai i rigori. Quindi forse molti si ricordano dell'errore del rigore, ma di questa prima giornata molti meno. Quindi vi ringrazio per questo, perché quello per tanti miei compagni, meno male, e poi la vincemmo, per tanti miei compagni di Montevarchi me l'hanno ripetuto per anni: tizi, se si perdeva ti si veniva a prendere a casa. Quindi per me è stato, fu un po' una delusione, però grazie a Giacinti, che fra l'altro è stato un altro di quelli che ha calcato campi importanti, grazie a Romeo Giacinti parò 3 rigori e non importò il mio errore dal dischetto. Però insomma, ecco, come montevarchino lì un po' presi il palo, un po' mi dispiacque del fatto. Quella comunque fu una stagione storia e ancora oggi è molto ricordata come una delle stagioni più grandi di sempre, diciamo, nella storia dell'Aquila. Se tu potessi farci una fotografia, un ricordo dei festeggiamenti, di quello che fu, soprattutto dopo la vittoria della Coppa, perché presumo, o forse mi sbaglio, che la Coppa l'avete vinta dopo il campionato. Sì, preciso. Esatto, cioè al momento in cui

per me è un doppio sacrificio, essendo del posto e quanto voglio bene a questi colori, per me è un doppio sacrificio, però sarà ripagato se ho alle spalle dei dirigenti e sento amano veramente questi colori. Fu così, però chiesi allo stesso tempo l'aiuto, potete domandare a Cito Volpi, ma Gian Maria, vi posso garantire che mi sono incontrato molte volte con tanti di voi e di loro in quel periodo per chiedere allo stesso tempo l'aiuto da parte loro, perché per me la curva era la cosa più importante. E infatti i ragazzi che poi sono venuti qua, molti li ho trascinati, perché il tifo che hanno visto qua forse non lo riviveranno più, perché Montevarchi, se sta in queste categorie, per molti di loro è stato il sogno viverlo, bellissimo, vissuto, però poi se non arrivai con loro in curva non lo rivivevano più, quindi è stato anche di vantaggio. E quindi per farti capire e per farvi capire che è un qualcosa veramente di grande, se vai a vederlo poi è quello che ti rimane, è la sensazione bella veramente di un tifo importante che fino alla fine ti dà solo una mano. E da parte mia colgo anche questa d'occasione per ringraziarvi tutti e ringraziarli tutti, perché mi sono stati veramente accanto, di fianco, ho sempre detto di fianco, mi hanno sorretto in qualunque occasione da calciatore e in questo ruolo. E ho accettato anche molto volentieri le critiche di persone anche che non erano in curva, perché poi ti spingono a fare meglio. E per me è stato veramente un grande onore, ripeto, a essere punto di riferimento in quegli anni per la ripartenza, perché ritenevo Montevarchi quello che mi aveva dato, volevo rirenderglielo quantomeno anche in un ruolo differente. Il ruolo a cui fa riferimento Tiziano Casucci, per puntualizzare, è un ruolo che lui aveva assunto dopo il fallimento societario del Montevarchi, e quindi Tiziano Casucci è stato anche protagonista da un punto di vista dirigenziale della rinascita dell'Aquila 1902, quindi della vittoria perlomeno dei primi tre campionati immediatamente dopo la rifondazione societaria. Detto questo, ci sarebbe un aneddoto anche che vorrei che tu ci raccontassi. Si riferisce a un fioretto che te facesti dopo, anzi prima della conclusione di uno di quei campionati vincenti, che ti vide protagonista insieme ad altri, qualcuno anche qui presente, diciamo, di una lunga camminata per festeggiare la vittoria. Allora sì, svelo qual è stato, che poi è stata anche quella una cosa talmente bella che mi porterò dietro veramente nei miei anni futuri. Fu presa al bar del Giglio un sabato, noi eravamo terzi in promozione, ci dicemmo dentro di noi con tanti ragazzi componenti della curva degli Ultras che se saremmo arrivati primi anche in quell'annata lì, io ci credevo moltissimo, era solo per piccole circostanze, eravamo indietro, però in fondo saremmo arrivati noi. Decidemmo di partire dal Giglio e arrivare alla Croce del Prato Magno, e in fondo, vinto anche quel campionato, primi in classifica, dovevamo temperare al nostro fioretto, e con qui Francesco Pingitore, che è stato veramente un compagno e un amico, perché l'ho conosciuto in quei frangenti, ma poi l'ho conosciuto in quella bella nottata, partimmo a mezzanotte come avevamo detto, ci siamo ritrovati poi insieme a tutto il gruppo degli Ultras, che l'ultima parte poi fra l'altro l'hanno fatta anche insieme a noi, a mezzogiorno alla Croce a fare un pranzo insieme e a festeggiare di nuovo quella vittoria del campionato. E puntualizziamo per chi ci ascolta e non è né di Montevarchi né del Valdarno, che questa camminata dal Giglio alla Croce del Prato Magno è una camminata di oltre 30 km con 1500 metri di dislivello. Insomma, una bella camminata, non è proprio una passeggiata tranquilla. È una cosa per pochi, diciamo. È una cosa per pochi. Tra l'altro poi c'erano su poi alla Croce a festeggiare sia la vittoria del campionato che però il vostro arrivo, anche gli amici di Empoli, gli amici di Perugia e di Lanciano. E per una persona come te, arrivare a vedere e a toccare con mano questa fratellanza, questa amicizia che c'è fra i montevarchini e fra persone delle più disparate zone d'Italia, del resto d'Italia, che effetto ti ha fatto? Ma guarda, devo dirti, allora, io per ovvi motivi chiaramente la domenica, quando ero responsabile prima squadra, dovevo stare in tribuna lì sopra allo spogliatoio come vi dicevo, per ovvi motivi, e molte volte ho fatto più il tifoso del, fra virgolette, responsabile. Però è la mia passione, quindi quando lo fai vedo anche in società. Agnelli, vi fa un esempio, che la vive da tifoso, eppure il presidente, oppure chi c'è stato a fare il direttore, la vivi, non c'è niente da fare. Se hai la passione dentro e ci tieni, la vivi. Qualche volta, ahimè, sono, può darsi sia andato anche oltre le righe, però, ripeto, è un qualcosa che ci sento e quindi l'ho fatto a cuore aperto e me ne sono sempre assunto responsabilità. Ma se dovessi tornare indietro rifarei la stessa cosa. Ma se vengo la domenica vado in curva, perché il mio posto è là, è dove mi ci trovo, è dove ho vissuto da bambino. Non c'era la curva, c'era la maratona e ci mettevano in cima con i barattoli pieni di sassi a fare il tifo. Quindi io sono sempre stato uno, e se devo scegliere la partita vado a vederla in curva. Vado a vedere una partita a San Siro, vado in curva, per farvi capire che la vivo molto più intensamente ed è quello il mio posto che mi piace vederlo. Ora, una nota dolente, diciamo così. Ci hai raccontato di tanti successi e di tanti momenti bellissimi che ti sei ritrovato a vivere con la maglia del Montevarchi. Raccontacene uno, che ci sarà stato sicuramente in tutta la tua ventennale carriera all'interno della squadra rossoblu, della società rossoblu, che invece non è andato proprio come ti aspettavi. Qual è l'evento che più cuoce, che più ti è dispiaciuto vivere in senso negativo? Mi fate tutte domande, mi fa molto piacere poi esprimerle, perché vi parlo a cuore aperto. Anche qui l'unico neo che ho vissuto a Montevarchi è stato in eccellenza quando ci venne espulso a Grassina Francesco Sorbini e gli venne dato 5 mesi. E lì veramente a fine partita già calcai alle televisioni, perché mi sembrava già ingiusto averlo cacciato fuori. Ma poi vedere il bollettino il giovedì con 5 mesi, credetemi, mi fece veramente rabbia dentro. E vedendo oggi che sono anche indagati, questo signore di Pisa è indagato, come molto probabilmente andrà indagato anche il designatore, veramente fa molto male, perché lo sport che ho vissuto io l'ho vissuto a 360 gradi, facendo vita in maniera esagerata, allenandomi anche nell'estate, ponendomi di fronte ai miei compagni sempre in maniera importante, perché io lo richiedevo ai giovani, anche quando sono stato tra i più vecchi, io mi dicevano sempre: sei un vecchio giovane, perché sono partito talmente presto e con delle regole ferree. Vi ho fatto l'esempio di Bruno, Beatrice e di altri compagni, che erano veramente delle regole importanti. Quegli anni lì, vi rifò un inciso, pulivamo le scarpe ai compagni più grandi, che sembrava una punizione, poi negli anni ho scoperto che è un grande valore, perché ti fa capire quanto non ci deve essere un custode, ma con che amore devi poi il tuo mezzo, che è la scarpa, poi è un mezzo tramite anche il pallone, deve andare in campo. E quello fu per me un altro di quei motivi che poi ho ritrasferito, però sono anni luce indietro. Fa piacere però ricordarli, perché mi hanno dato tanto di insegnamento e ho potuto recepire quei consigli che poi negli anni mi sono veramente serviti. Bene Tiziano, tornando indietro ai tuoi anni da calciatore, nella stagione 86-87 hai giocato per un breve periodo, perché poi ti sei infortunato, ad Agrigento in Sicilia. Già Vinicio Brilli nelle puntate precedenti ci aveva raccontato delle difficoltà, o quantomeno della particolarità di passare dalla realtà cittadina alla Sicilia, che oggi appare così vicina, ma magari ai tempi era piuttosto esotico e lontana come meta di destinazione. Nel caso di Vinicio, lui era ad Alcamo. Te invece andesti ad Agrigento. Raccontaci un po' le sensazioni di... La squadra è l'Acragas, venni mandato giù tramite l'Arezzo, che sempre con Piazzesi decidemmo di provare questa avventura. L'Arezzo aveva fatto da tramite, perché avevo giocato insieme a Amedeo e Guido Carboni, che poi uno ha fatto una carriera spaventosa, anche l'altro, anche Guido, però molta più di sci, l'altro fino alla nazionale, giocandosi la Coppa dei Campioni, quindi... E tramite l'Arezzo, come vi dicevo, insieme a René Colusso, a Quercioli, ci mandò giù. Però erano tutte altre leggi rispetto a ora, il mercato era a settembre, c'erano tantissime novità rispetto a quelle che ci sono oggi. Nella partita di Coppa con il Messina, in un'entrata risubì una lesione al tendine che avevo fatto anche in Monte Barca in Tella, e purtroppo i medici sospettarono di un grave infortunio. Mi toccò ritornare indietro e starmene a casa per i successivi 6 mesi a curarmi tenendo un chiodo sul ginocchio, e ripartendo l'anno dopo purtroppo rifacendo un po' tutta la carrellata di nuovo con il Monte. Ero contentissimo, ero nel mio paese, però mi si era presentata un'occasione importante che purtroppo dovetti tagliare per questo infortunio. Quindi per te la Sicilia durò appena 2 mesi? Eh sì. Ma e appunto come fu però il momento del passaggio, anche da un punto di vista di viaggio, di spostamento, perché magari ora non era probabilmente la prima volta che prendevi l'aereo, però insomma... No, non era la prima volta, perché con il Monte Barchi l'avevamo già preso, però che andavo in Sicilia a giocare era la prima volta. Ero stato in Sardegna ma non ero stato in Sicilia. Da Roma fino a Palermo, poi erano a prendermi a Palermo. Il ritorno invece lo feci in treno e non arrivavo mai. La Sicilia in quel periodo era veramente, devo essere sincero, era un altro tipo di vita, però veramente laggiù erano molto indietro e non mi sembrava vero di andare a vedere delle situazioni che non avevo vissuto nemmeno da bambino. Ma posso fare una domanda dopo? Non so se si mette. Ma cioè, all'andata sei andato in aereo e al ritorno da infortunato ti hanno rimandato in treno, o è stata la mia scelta. Ah, una tua scelta? Una mia scelta. Perché sennò da un punto di vista societario era una mia scelta. Abbastanza ingrata. Una mia scelta, perché il ginocchio lo potevo piegare male, e in treno mi trovai disteso in cuccetta e dopo una trafila mi venne mio babbo a prendere di nuovo a Roma e mi riportò in macchina, però scelsi il treno per questo motivo. Era una curiosità semplicemente dovuta perché al mezzo di trasporto. Non potevo ripiegare il ginocchio bene, chiaro. Avevo questo chiodo sul ginocchio e quindi la gamba mi doveva stare distesa, e allora in aereo dovevo per forza piegarlo, e scelsi il treno anche se fu molto dura, però sono sincero, dovendoci ripensare, la scelta dettata dal dottore fu una scelta azzeccata. Fu molto lunga, perché ci misi più di un giorno e mezzo per arrivare a Roma, però fu veramente azzeccata, perché piegarlo non mi riusciva, avevo un dolore incredibile, infatti stetti 5 mesi con la gamba dritta. Non erano i tempi di oggi in cui da un infortunio al ginocchio ci si riprende comunque in molto meno tempo, ma al di là di questo, bene, io direi che stiamo andando verso la conclusione della puntata e abbiamo piacevolmente ripercorso la tua carriera, le tue sensazioni, le tue emozioni. Bene, sei partito a 6 anni dai Pulcinissimi per arrivare alla prima squadra, poi esperienze fuori, esperienze in prima squadra molto soddisfacenti, come ci hai raccontato, alcune esperienze da allenatore, anche se hai dovuto interrompere la carriera per motivi di lavoro. Ma come succede a tanti giocatori, poi è difficile smettere, è difficile togliersi davvero gli scarpini, e tanti vanno a finire in campionati amatoriali. Tu invece no, tu hai, diciamo, concluso la tua carriera da calciatore nella squadra aziendale, che mi dicono era una squadra molto forte. Ma come è nata questa cosa? È stata la tua voglia di tornare a giocare? È stata la tua voglia di non smettere? E quali altri calciatori c'erano? Perché te sei stato un calciatore vero, ma se la squadra era forte, mi immagino ce ne siano stati anche altri. Devo dirti che nacque questa esperienza andando a lavorare in questa magnifica ditta, perché poi, anche se ora non è più Bering, l'Istituto De Angeli e l'ha presa il gruppo Fareva francese, devo dire che i tedeschi si sono rapportati per più di 20 anni con noi in maniera fantastica. Non mi sembrava... Tutt'oggi vado molto volentieri al lavoro, ma posso garantirvi, in quegli anni non era lavoro, era andare a divertirsi, letteralmente, perché fra gli allenamenti, i tornei facevamo all'estero, abbiamo vinto tutto, e i mondiali li abbiamo sempre vinti, e il centenario addirittura, sono state esperienze dove ci portavano addirittura in ritiro 15 giorni. E la squadra era formata da Grossi, ha fatto la Serie D a Figline, Lorenzo Grossi, un portierone, veramente è stato in zona Terranuova, Figline, quando c'erano queste squadre, il Montevarchi e Ranci, e loro facevano la Serie D. Quindi Roncolini Andrea, è stato Andrea, non solo lavoriamo insieme, un amico e poi ci ho giocato insieme, ma è stato veramente un ragazzo che ha giocato insieme a Vialli, a Cremona, questo solo per sfortuna, aveva delle qualità incredibili. Sacchi, penso, una volta mi raccontava, aveva visto come il ragazzo il profilo più importante aveva allenato lui, quindi per dirvi, Michelini, Gabrielli, Gennaro, ha giocato anche con me a Montepaschi, siamo stati insieme, la punta, Gennaro Gabrielli esordì anche lui molto giovane a Montepaschi, addirittura con Balleri. Poi altri, mi sfugge un po' il nome, che magari hanno fatto categorie di prima, promozione, però per dirvi che era una squadra veramente importante. E all'estero giocavamo con i tedeschi, vi faccio un esempio, o i francesi, che in quegli anni lì il semiprofessionismo era un calciatore di Serie C. Perché all'estero i calciatori di Serie C, come un periodo è stato anche in Italia, erano semiprofessionisti. Quindi per farvi capire il valore anche delle altre squadre, veramente una competizione elevatissima. E poi l'ambiente tedesco, riferito a una ditta che ha 30.000-40.000 operai dentro a lavorare, operai impiegati, cioè la ditta comprende 40.000 persone. Noi eravamo sulle 700 in quel momento, quindi per farvi capire anche la scelta. Li abbiamo sempre battuti e tutte le volte che le battevamo non si riuscivano loro a capacitare come con questa squadra riuscivamo a battere i giocatori che avevano fatto anche carriere di Serie B qualcuno. Bene Tiziano, un'esperienza sicuramente interessante, come sono state interessantissime le storie di vita e di Montevarchinità che ci ha raccontato, per questo io ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata, ringrazio il nostro regista Francesco Pingitore, ringrazio il mio compagno di viaggio Fumino. Grazie a te Giulia. E ringraziamo appunto Tiziano Casucci per essere stato ospite nostro e per aver condiviso i suoi racconti e le sue storie con noi. Io dal cuore vi ringrazio perché fate un qualcosa veramente di bello, di straordinario, perché è vita vissuta calcistica e non, ma soprattutto prendervi il tempo e dedicarlo alla squadra del cuore e a questi spezzoni che poi uno riporta nelle vostre interviste è un qualcosa di lodevole. Sei veramente in gamba, grazie di cuore per questa bellissima serata. Grazie a te Tiziano anche da parte mia e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Ci sentiamo la prossima settimana, grazie. Arrivò quinti, ma c'era la forbice dei 10 punti e non ci si fece. Che venne riga, no? Che venne riga, io lo conoscevo, lo portai e venne. Inquisito! Certo! Sono tutti i giornali. Ma per via di chiedere lo scandalo questo di Prata? No? Certo! Perché per quello della se stessi. Se stessi, chiusi se stessi, ha vinto la se stessi. E l'ha massacrati, un arbitraggio da antologia. Troppo vergognoso. Sì, quello vuol dire che lui nel rapporto ci ha scritto di pelle e di becco. Ma che scherzi veramente? La sanzione la dà un giudice che gli arriva i referti e sa una sega. È un giudice vero quello, non è mai un giudice finto. Poi quando... Poi magari non vinci. Però tu da noia, il Montevarchi avrebbe vinto tutto, tu da noia, a spese normali, crediti. Stefano Neri. Il regista. Pingitore. E come siamo? Di nome Francesco. Francesco Pingitore. Vai. Ah, e tornando al proprio ai momenti in cui tu calcavi i campi di calcio con la maglia rossoblu, alcuni ospiti. E che ho sbagliato? Era un'ispirazione. È due giorni un fumo sotto un nervo di morto. Bene, voi? Faccia sì, fa. Ha fatto la prossima. Un paio di mesi. No, io camminavo. Sono stato fermo un anno e il distacco semitendinoso del tendine qui del ginocchio. Di questo tendinone qui. Perché mi misero un chiodo dentro e sono stato 5 mesi a letto. Bene Tiziano, tornando indietro alla tua carriera da calciatore. Nella stagione 85-86 86-87. La rifocchi. Te l'ho scritto. E l'ho anche guardato. Sono 30 anni fa. Che... tu sai leggere. Stavo per morire, guarda. Madonna, sono tossivo, morire. Ci credo. Mai Alan. Beh, un'esperienza sicuramente singolare. Però su quel naso si sente. Porca troia, si chiama Pier Francesco Vincitore.